ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Nona puntata. Idrusa. Andavo sì scalza come tutte le mogli dei pescatori, ma a differenza delle altre annodavo con cura i capelli e li fermavo con cordelle di seta colorata perché non mi lasciava mai la volontà di essere bella. Spesso uscendo dalla porta grande, scendevo verso gli ulivi della roca matura, camminando come i ragazzini quando vanno soli per la via e presi dalla meraviglia di essere nel mondo fanno lunghi giri inutili. A vedere gli ulivi declinanti verso il mare, alcuni di qua, altri di là delle rocce, con pezzi di radici al sole, mi domandavo come gli uomini non ammattissero dalla voglia di vivere fra gli alberi. La cosa stravagante della roca matura erano le tonde colline di sabbia, da cui sortivano gigli bianchi con un lungo stelo grasso. Sprofondavo fino al ginocchio nella sabbia finché, arrivata alla punta, mi sdraiavo con le mani dietro la nuca e restavo così magari un'ora fissando un giglio che dondolava nell'aria, domandandogli come si fa ad essere felici. I gabbiani volavano fra le rocce, le cornacchie di mare tra i rami degli ulivi. Ma quando tutto questo era cominciato nella mia vita? Doveva ben esserci uno sbaglio a un certo punto. Così andavo indietro con ordine, anno per anno, frugando nella memoria, invano. Allora, poco a poco, provavo il dolore di non godere più dell'uliveto, di non godere più dell'aria attraversata dagli uccelli. Mi alzavo di botto e cominciavo a raccogliere capperi. Ne facevo gruppetti di 50 grossi, 50 mezzani e 50 piccoli. Fare di conto aiuta moltissimo in certi momenti. Quando andai sposa ad Antonio avevo 17 anni. Poiché ero orfana, ci avevano pensato la sorella e il cognato a sposarmi. Io allora mi struggevo di essere una buona moglie, saputa nel tener pulito ogni angolo della casa, nello sciorinare i panni sulla lamia, nel fare la pasta. È vero che quando la notte lui mi stringeva fra le braccia e, preso da una furia per me misteriosa, respirava come se avesse l'asma, io restavo immobile con gli occhi spalancati nel buio, nauseata. Ma al mattino mi riprendeva la voglia di nettare, cucinare, preparare ad Antonio la merenda per la barca con dentro qualche sorpresa. I capperi di San Damiano, per esempio, piccoli e saporiti, i quali, crescendo fra gli scogli e il mare, non avevano modo di disperdere gli umori, erano duri all'esterno e polposi dentro. Quando Antonio tornava a casa io ero contenta e mi mettevo a cantare, ma poi d'un tratto certi giorni avevo voglia di non vedermelo davanti. Al tramonto, calato il sole a destra della Torre del Serpe, ci sedevamo vicino alla cisterna, nel mezzo del cortiletto da dove si riusciva a vedere il mare. Antonio, di natura, parlava poco e men che meno con me, come tutti i pescatori ai quali dà noia parlare con le donne di cose che non siano indispensabili. Una sera d'improvviso disse: «Sai, da un pezzo penso di darti un'altra casa, diversa da questa». «Come?» domandai piena di meraviglia. «Questa è umida, è triste, lo so che non ti piace». «E come fai a prendere un'altra casa?» «Lavorerò tanto e ce la farò». Guardando lontano soggiunse: «Entrerà tanto sole e noi mangeremo seduti l'uno in faccia all'altra con le finestre aperte». «Un'altra casa?» mormorai. «Santo Iddio!» «Io capisco che qua non sei allegra. Sei abituata in campagna, tu, alla masseria». Mi prese una mano e la strinse fra le sue. Restò soprappensiero. Io gridai: «Guarda, in fondo al canale ci sono due paranze brindisine!» «Sì?» disse distratto. Si portò il palmo della mia mano alla bocca e cominciò a baciarlo. Le paranze sembravano sempre allo stesso punto, ma era proprio vero che lui non vedeva più le paranze quando io gli sedevo vicino. Non sentiva lo zoccolo del mulo che batteva nella stalla di compare Pietro. «Idrusa», disse a voce bassa, «tu mi vuoi bene?» «E come no?» Mi sentii presa fra le braccia. Antonio mi sollevò di peso e mi portò in casa. «Sei la più bella donna di Otranto», disse, «la più bella del mondo. Hai la pelle bianca, le mammelle profumate». Lo ascoltavo sbalordita. Facemmo l'amore, gli accarezzavo i capelli, il collo, le spalle. Ma la notte mi venne un pensiero curioso. Mi sembrò di assomigliare a un podere di cui il padrone ha arato una fetta e seminato a grano, che cresce rigoglioso per virtù di buona terra, mentre il resto è lasciato ai rovi, ai cespugli di finocchio selvatico. L'indomani mia sorella scese dall'altopiano per aiutarmi a fare il bucato. Io lavavo i panni, dopodiché lei li disponeva nel cofano e li copriva di cenere. Quando in cucina la caldaia toccò quasi il bollore, mia sorella cominciò a versare con una brocca acqua bollente sulla cenere, seguendo un movimento circolare. I vapori, dall'odore di soda e cenere, si mescolavano al fumo della legna e si diffondevano sul cofano, sulla tinozza dove io lavavo, sugli umili, sugli sgabelli pieni di panni. In quella il fumo prese a crescere, a uscire dalla porta della cucina in grosse ondate col suo odore di legna bruciacchiata. Io sollevai il capo dalla tinozza. «Tu», dissi, «quando hai sposato Pietro, ti sei sentita felice?» «Come sentita felice?» Lei rispose indaffarata e tossendo per il fumo. Entrò in cucina e cominciò a rovistare nel fornello. Mi gridò: «Si può sapere perché hai messo la legna nuova quando c'era la vecchia? Neanche visto che è verde!» Io ripresi a insaponare i panni. Quando lei uscì nel cortiletto, levai le mani dall'acqua e mi rizzai. «Senti», dissi, «io voglio bene ad Antonio, ma non lo amo». «Zitta, non dire stravaganze», rispose continuando a versare con la brocca l'acqua bollente e asciugandosi gli occhi che le lacrimavano per il fumo. «Io», gridai spazientita, «non sento niente quando Antonio mi prende, niente e poi niente». Mia sorella andò alla caldaia, aggiunse acqua fredda, regolò il fuoco togliendo un tizzone di legna nuova che faceva fumo e buttandolo in un catino d'acqua, sicché il legno cominciò a friggere. Quando tornò in cortile disse: «Questo non è naturale. Prendi qualche difesa, la mattina metti nello stomaco un poco di biscotto e di aleatico. È la debolezza che fa frigido il sangue». Stringevo a serpe un lenzuolo per togliergli l'acqua e lo battevo irritata sull'asse. «E poi io non lo amo», gridavo intanto. «Non lo amo!» Mia sorella venne a mettersi di fronte a me, al di là della tinozza. «Ma che fantasia ti prende adesso?» disse severa. «Abbiamo scelto un bravo giovane, t'abbiamo fatto il corredo, t'abbiamo sposata con tutti i sacrifici e adesso vieni fuori con queste stravaganze. Il matrimonio è cosa di Dio, dunque bisogna onorarlo». Poiché il fumo riprese a uscire dalla cucina, bruciava gli occhi, pizzicava la gola, e quel bruciare e pizzicare insieme andavano al cervello. Gridai: «Ma io non sono felice! Com'è poi la cosa?» «Smettila, idrosa, fammi il favore. Finisci presto di lavare, sennò il calore cresce troppo nel cofano e ti trovi le lenzuola gialle per la scottatura». Ripresi infuriata a lavare. Potevo uccidermi e così era finita, ma mi dispiaceva l'idea di non parlare più, di non fare più bagni, di essere mangiata dai vermi. «Sai che possiamo fare?» disse mia sorella. «Facciamo una torta di acciughe per godere la brace». Rientrata in cucina, scosse la serrandola del fornello, prese l'asse della pasta e subito cominciò a impastare, a tagliare a fettine una caciotta, a pulire le acciughe. Ogni tanto mi gridava: «Hai finito di lavare?» «No», rispondevo. Quando dissi sì, lei aveva già messo la torta a cuocere sulla brace. «Brava», mi disse, «adesso siamo a posto». «E qui che succede? Brucia la casa?» gridò Antonio dall'entrata del cortile. Non ci aspettavamo la sua venuta a quell'ora e a tutta prima non trovammo parole. Mia sorella si riprese per prima. «È verde la legna», disse, «e fa fumo». «Non è questione di legna», rispose Antonio. «Qua tutto è vecchio, anche il camino, e non tira più. Ci vuole una casa nuova, una casa piena di aria». «Una casa piena di aria?» Mia sorella quel giorno andava di sorpresa in sorpresa. «Sì, ci dobbiamo prendere un'altra casa». «E con cosa la prendi?» domandò mia sorella. «Andrò a pesca giorno e notte, guadagnerò il doppio», lui rispose deciso. «E ci perderai la salute, che è dono di Dio», disse mia sorella, che aveva uno speciale gusto di ricordare l'opera di Dio in tutte le cose. Antonio, invece di rispondere, si accostò a me e mi fece svelta una carezza sui capelli, mentre i suoi occhi dicevano che voleva la casa per me, per vedermi allegra. Che possa dannarmi se non avevo voglia di essere una brava moglie, tanto che sorrisi ad Antonio e, per far meglio, gli misi le braccia al collo, gli diedi anche un bacio, lì davanti a mia sorella. Lei raccolse i suoi panni per andarsene. Sulla porta alzò gli occhi verso di me e disse: «Ma tu sei fatta di arcobaleno, sorella mia». Era il mese di settembre e in quel tempo si fece una grande festa a Otranto per la venuta di Don Felice a Hierbo d'Aragona, adelantado delle milizie spagnole in terra d'Otranto. Egli giunse dall'interno, passando per Lecce e Minervino, con un ricco seguito di messeri in sopravveste di color sanguigno, morello, vergato e con manti di drappo. Don Felice, che era corpulento e bianco di capelli, indossava un mantello argentato, con borsa di seta e spada, mentre i soldati spagnoli del seguito andavano maestosi dentro le gonnelle di ferro bianco e, sapendo di non essere amati dal nostro popolo, cercavano di far colpo con lo sfarzo della cerimonia. Così avvenne che, per onorare Don Felice, il 29 settembre, giorno dei santi medici Cosma e Damiano, si fece una grande processione a mare. Veramente i pescatori, che prevedevano tramontana, l'avevano sconsigliata, ma il comando spagnolo, sempre sospettoso verso le idee degli otrantini, si impuntò. Sull'acqua vi erano 100 barche, mosse dal vento, nelle quali si disposero esultanti al suono delle cornamuse le dame e i gentiluomini della città, con fini drappi di mille colori che facevano un bel effetto sul mare e davano a Otranto l'aria di una città dilettevole e ricca. Poiché sulla barca di Mastro Natale entrarono dondolando le statue dei santi medici, posate su un baldacchino come due alberelli di Dio che oscillassero al vento, dalla piana azzurra del mare salivano verso di esse le facce dei monaci basiliani del convento di San Nicola di Casole, spuntando fuori dai lunghi cappucci grigi e dondolando pure loro al moto delle onde. Tutti gli uomini e le donne ballavano sul mare, mescolati in una grande folla, le dame con le maniche di seta, i fabbri ferrai, i cimatori di lana, i soldati. Ne usciva una felice idea della vita. Solo i pescatori, sudati per dover remare contro vento e timorosi di burrasca, si distinguevano dagli altri, in quanto sulla pelle scura della faccia conservavano un'espressione seria, distante. Antonio, che era uno dei rematori più robusti fra Otranto e Capo Santa Maria di Leuca, capace di condurre a terra un'imbarcazione con qualunque bufera di tramontana, remava agli ordini di Mastro Natale nella barca dei Santi, mentre io sedevo di fianco all'Assunta nella barca di Colangelo, il quale distribuiva a tempo le remate sull'acqua mossa e verdastra, dove le alghe salite dal fondo si incrociavano e avviluppavano come anguille. All'altezza delle Grottelle, cioè a metà strada per la punta della Roca Matura, il mare si ingrossò e le barche cominciarono a rollare. «Battete di sinistra!» ordinò Mastro Natale, uomo avvisato e di sangue freddo, che guidava in piedi da poppa la barca dei Santi. A largo le onde, secondo una legge fissa del mare, si arrotolavano all'altezza della punta e qualche istante dopo si srotolavano addosso alle barche con uno schianto di spuma che da principio piacque moltissimo alla gente, soprattutto alle dame, nuove al mare di Tramontana. Tutti mandavano piccoli gridi di gioia. Ma a poco l'entusiasmo passò. La gente cominciava ad avere paura, come se scoprissero di essere in mezzo a qualcosa che non aveva niente a che fare con la processione e sgusciava dalla superficie dell'acqua, una voglia segreta e violenta di orgia. «C'è pericolo, c'è pericolo!» domandavano i soldati spagnoli ai pescatori. «È la girata del vento!» gridò Mastro Natale. «Col tramonto del sole cala!» «È il caso di tornare?» domandò spaventato un ufficiale spagnolo. «No», rispose secco Mastro Natale. «Ora l'approdo agli scogli sarebbe difficile, qualche barca si potrebbe sfasciare. Al tramonto sarà un gioco». «Sei sicuro di quello che dici, brav'uomo?» domandò l'ufficiale. Mastro Natale si irritò di quel chiacchiericcio e fissò in silenzio gli spagnoli con gli occhi duri. Anche Colangelo pareva seccato. Guardava il figlio piccino della principessa di Tricase che tutto piagnucoloso si aggrappava alla gonna della madre. «Quel moccioso pieno di paura», disse. «Un giorno sarà un principe e ci toccherà fargli inchini e riverenze e baciargli la mano». Eravamo vicini alla barca dei santi e Antonio si sporse. «Idrusa!» mi gridò. «I santi medici vogliono ballare la pizzica pizzica!» «E se il mare non li portasse?» disse Colangelo, ma così per dire, perché noi abituati al mare sapevamo distinguere da tramontana a tramontana. «Come se non li portasse?» intervenne Assunta. «Gesù! Se anche al mare dessero fastidio agli spagnoli!» rispose Colangelo. «Ci capiterà qualche sventura», disse Assunta, «se mettiamo odio anche alle processioni». «Se metto odio è che non posso vedere quelli lì», fece Colangelo. E subito cominciò a parlare con se stesso a voce bassa, a farsi domande, a rispondersi, un andirivieni di parole. «Ah, messeri, credete forse perché siete coperti di drappi ricamati, eh? Ma vi sfiancherete che il diavolo vi pigli!» «Sta zitto», pregava a bassa voce Assunta, incrociando le dita delle mani. «Sta zitto, ti avesse a sentire uno!» Avevamo appunto alla nostra destra un barcone carico di soldati spagnoli. A prua sedeva l'ufficiale dalla faccia olivastra ben formata, a cui il sole aveva aggiunto riflessi di metallo. Aveva occhi neri, arditi, che facevano contrasto con l'indolenza di tutto il corpo, dando a chi lo guardava il gusto di quei frutti agrodolci che tormentano il palato per la loro instabilità. Lo osservai bene perché era il più bell'uomo che ci fosse alla festa e se non era il più bell'uomo già il mio destino cominciava a confondermi. «Chissà da che paesi lontani vengono», disse Assunta. «Ai soldati di mestiere piace vivere in tanti paesi», rispose Colangelo. «Non hanno i gusti nostri». «E che ne sai tu?» disse Assunta. «Vorranno anche loro bene a qualcuno in qualche posto». «Se fosse così starebbero là». «Va a sapere», disse Assunta. «È come per i pesci. Ci sono quelli che capitano nella rete e quelli che non capitano». «No, signore», rimbeccò Colangelo. «I pesci fanno la volontà di Dio. Gli spagnoli no. Che il diavolo li pigli. Guarda come rema quello lì. Un pescatore, neanche con la febbre quartana». Assunta tacque, perché aveva paura che Colangelo fosse preso dall'ira. Era come suo padre, un uomo fantastico quando si trattava della terra d'Otranto e degli spagnoli. «Per parte mia, devo dire che mi pareva una gran cosa essere vivi in mezzo al suono delle cornamuse fra dame vestite di seta. Anche le rocce grigie, picchiettate di nero, facevano parte della vita. E io stavo girando il mondo, che era una piana infinita, seminata di bellezze come la superficie del mare, quando mi accorsi che l'ufficiale spagnolo, seduto a prua della barca, mi fissava con occhi pieni di curiosità. Ricambiai lo sguardo, abbassai gli occhi, subito li rialzai. Mi fissava ancora allo stesso modo. La cosa mi fece meraviglia, poi mi seccò e mi precipitai con gli occhi su San Cosma che reggeva nelle mani di Creta un libro di medicina e una lunga penna pure di Creta. Le barche doppiavano in quella la punta della rocamatura, da dove si scorgeva all'orizzonte la palude della Limini con un disegno più lontano di costa e di pini in direzione di Brindisi. «Il più è fatto», disse Colangelo. «Di là dalla punta il mare si calma». «Non è stato poi tanto male», disse Assunta. La gente sulle barche ricominciava a vociare, a esprimere la propria soddisfazione, che è difficile trattenere dentro di sé quando si è in festosa compagnia. L'allegrezza, passando di barca in barca, animava la conversazione e la galanteria dei cavalieri, come si poteva vedere dagli occhi delle dame diventati lucenti. Dirò che quando l'ufficiale spagnolo mi guardò ancora fisso, io rimasi incerta a quel segno di novità. Nell'istante medesimo suonarono le trombe militari. E fattosi d'improvviso silenzio, l'arcivescovo Pendinelli, nato in tempi lontani, alto e sottile come una canna di palude, con un filo di voce che sortiva dalle labbra pallide, benedisse le onde del mare. Volto uno sguardo lungo al cielo azzurro, invitò Cosma e Damiano, medici dell'anima e del corpo, secondo le lezioni di Dio, a distribuire le loro grazie, perdonando in quel giorno di festa le storditezze degli uomini. Spiegò che Cosma e Damiano erano una volta medici famosi di un paese che aveva nome Cilicia e curavano i malati senza volere argento, reputandolo anzi radice di tutti i mali, e per questo nelle litanie generali dei santi erano chiamati anargiri. A quel punto si vide la gente chiedersi da una barca all'altra come diavolo si chiamavano, tanto sembrò a tutti curioso quel nome. Dopodiché i monaci intonarono un Te Deum di gratitudine e i muscoli dei pescatori voltarono le prue delle barche mentre uccelli d'oro volavano all'occidente incontro al sole. Io pensavo che forse una volta anche San Cosma e San Damiano avevano amato andare a spasso, bere, giocare con le donne. Non pregavano neanche forse e non pensavano per niente a Dio, finché un giorno d'un tratto, curando la ferita di un lebbroso, avevano scoperto dentro quel lebbroso la verità e la vita di prima era stata completamente dimenticata. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.